cambiato il microfono, va bene. Tutto qua. Ciao, ciao. Sì, ma no. Come segnale va? fai benissimo. È la radio che dovresti aumentare un po'. Dai, gappa. Ma infatti, dovresti vedere un po'. Ehi, dammi 2 minuti, eh. Mi sto... Mamma mia, dove arrivi fino a oggi. Riprendi, Maria, dammi 2 minuti. Mettiti una fascia elastica e al più presto. senso farti questa ragionanza, perché non puoi rimanere così. Certo, devo lì, adesso prendo appuntamento, me la faccio fare. Gappa di positivo, perché ci vuole. È inutile, con la salute non si scherza. E se te la lasci sfuggire, poi è un casino. Infatti, un problema liscio. Ma la cosa che più mi sta preoccupando è che mi viene, mi passa, capito? Claudio, sta Faroviero, ehi, sta Lamaro da un po' tanti secoli, rientrato, sono rientrato così. Ma non lo so se è così, ti ripeto Natale, prima volta che lo accendo dopo un tanto. siamo sempre presso l'età grezzetta, quasi tutti noi ci facciamo per chiacchiere, così io sto per ammattare un po' il tempo, con la speranza che non ci siano disturbatori o gente che, insomma, gente di quella maniera come vecchi tempi, ma comunque per il momento siamo, diciamo, al 90% ancora fattibile trasmettere. Io ero passato un po' più in alto assieme a Michele e poi niente, la passione c'è sempre qua per la 27, non mi sono mai fatto scadere nulla e quindi continuo a chiacchierare anche qua, nonostante faccia altro tipo di attività, ma qua mi piace sempre. Capito? Gli amici ci sono, quindi è bene ogni tanto chiacchierare anche qua. Natalia, hai sistemato quelle lettere di niente? No. Ma cosa c'è? No, non va. No, non va. Franco, ti è fatto qualcosa male? Non lo so. Io ti sentivo con l'antenino in gomma molto, molto bene. Infatti, ho detto anche a Franco, l'altra volta ho detto, facendo una prova, con l'antenna in gomma, ho detto, guarda, se mi arriva la Natalia, la Natalia in gomma, devi arrivare anche tu, perché lui è più su di te, quindi tu vieni all'aria, ti ho davanti, quindi mi devi arrivare, infatti lui arriva. Tu arrivi, benissimo, il segnale c'è, però questa radio chiusa, sembra fuori frequenza, ma lì c'è poco da essere fuori frequenza perché è canalizzato, quindi... quindi così, infatti, una vetta del radio, un paio di radio, poi me ne vado alla nanna a riposarmi le ossa, che sono veramente in questo periodo molto molto messo male. Ok, Natalizia, un segnale allucinante, veramente. Se hai fatto quel lavoro dell'antenna, praticamente sei a livello di Lucca, stai toccando il più 30, non ti ho mai visto così. Ma perché non ho tutti i loro libero, tutto. Va benissimo. Buonasera, Claudio Sparviero, Natalina Alfa 1 e Leonardo Papillon, mi fa Papereta, Papillon, me lo ricordo, Leonardo con Cavallo. Un bel microfono, mattini così vanno bene, certo non è che sia tutta questa grandiosa modulazione, però in linea di massima stanno andando bene, ci stanno dando delle ultime soddisfazioni questi microfoni. Quindi il più 4 che non ha il tono, c'è una modifica appena da fare sulla capsula che ti farà Franco, usi quello lì, sono sicuro che vai molto bene, molto meglio di come stiamo andando adesso. Questo è un CPO, è buon pomeriggio, sta avrà 30 anni questo microfono. Ma va benissimo, vabbè, lascialo così, non lo toccare più. Usa questo, tranquillo e sereno, non ci sono problemi. Nata lì, e non è buona questa modulazione. Ma sì, non vedo del problema, per non avere. Tu, la fai magari tu che era graffiato, che non andava bene, ho fatto di studio. Vabbè, guarda, se io ti dico che va bene, vuol dire che va bene, altrimenti lo sai, io ci tengo moltissimo alle radio e alle modulazioni. Hai un effetto presenza molto ma molto bello, la radio è abbastanza chiara, abbastanza forte, non è quelle radio prepotenti, però ti dico che c'è una leggera amplificazione, va bene, è veramente una radio buona per conto mio, nonostante noi siamo vicini. Quindi se ti dicono che ti riuscendo male, evidentemente dipende da loro, perché io ti ascolto benissimo, ma non bene, benissimo. Papa, ma è naturale la voce, non ci sono se troppi acuti o troppo basso, la voce è normale, è naturale. Comunque c'è un effetto presenza che è una cosa favolosa. A me piacciono questo tipo di modulazioni. Non so se c'è Marco l'ascolto, qualcuno che ti senti un po' più da lontano, non lo so, ma io ti dico, nonostante la vicinanza, ti ascolto bene, bene, bene, altrimenti ti ho detto, vabbè, l'ampartito, lo sai io, non sono di quelli che non sono niente, non uso minimi termini, ti dico bene, 5 perfetta, presenza alla grande, c'è cioè, questa tonalità medio-bassa, con leggera amplificazione, va bene la radio, grazie se va bene. Riprendi la salina tu adesso. Un attimo, sto facendo una cosa proprio sulle lenti 4. Sto facendo. Si prende anche lui l'ascolto un attimo. Già, no. Capito, Robert? Vai bene, bene, bene, bene, bene, veramente. Per me vai bene. Scappa, che è rimasto io Claudio, sotto? Nessuno, Leonardo ha chiuso e sta parlando una carrellata nei canali e niente, siamo io e tu, Natalino, se non entra qualche altra persona lasciamo un attimo di bianco, vediamo un po'. Tu che Claudio l'ho fatto nell'ultimo periodo, sta arrivando gente nuova, prima non c'erano queste persone, se modulato. L'appetito viene mangiando, Roberto, è chiaro che quando uno ha la passione della radio e accendeva, non sentiva nessuno, la prendeva e la buttava da una parte. Accende, sente che c'è sempre il canale 10 impegnato, occupato da persone, è chiaro che fa piacere fare lo schiaffo. Leonardo è un vecchio CB, e figurati, è venuto anche qua a casa 10 anni fa, perciò fa piacere quando la gente entra a fare due chiacchiere, non ci sono problemi. Certo, non credo. Secondo me che è pieno a casa di ricordatore, per cui se ci sono altre ci saranno anche le persone utilizzare, non è così? Lo so, ma molta gente per la fatica di ritogliere l'antenna è, capito? Poi si è venduto la radio, si è venduto tutto ed è rimasta l'antenna, capito? Se mai per l'altro giorno cosa mai sono in cucina, Claudio? No. Tu abita, come fratello, figlio mio fratello, abita molto bianchino, a Natale gli ho regalato quei giocattolini con molti tutti da bambino. E tu sento sempre questo Claudio che parla di acqua e Luca. Senti, vatti a Luca. Di acqua? E in poco non parlo io di acqua qua. Ne ho lasciato le piene di sentire sempre il solito rumore, che è quello del mio quaselle. Ma, amico, è chiaro che chi ha quegli apparatini lì sente la gente parlare, come quando io ragazzino iniziai proprio con un walkie-talkie, un canale che era il canale 14, poi pian piano mi aggiornai e presi allora un tre canali della Fayette con questa antenna macrolottica che era 2 metri, infatti mia madre più di una volta non lo prendeva, me lo buttava in una parte e dice ne toglievo gli occhi a qualcuno. Ascoltavo quando c'era gente su quel canale lì, parlavo anche se erano vicini, se non erano vicini non mi sentiva nessuno, capito? Quindi si inizia con queste cose e poi pian pianino si diventa grande, no? È come inizi dal triciclo e poi vai a guidare la macchina. Ah, ma quello che meraviglia che è entrato, vabbè, tu sei abbastanza vicino, stava Natalino e Luca, gli altri nessuno prendeva, ma soltanto questo Natalino, Luca e Claudio. Montebianchino, che so che Luca è vicino, io sono in alto, quindi magari entravo di prepotenza, Natalino è vicino e quindi è chiaro che sentono le persone vicine quelle radio lì. Da entrare devo avere un segnale, io già me ne accorgo che Luca c'ha un segnale a bomba, anche Natalino, tu vabbè sei vicino, non c'è problema. Ma le persone che stanno uscendo molto bene a Sassari, diciamo, in questo momento Natalino arrivano molto molto forte, e Luca, Franco, Natalino hanno un segnalone, poi c'è Gianni un po' più basso, Antonio quando è a casa della madre ha un segnalone allucinante. Insomma, c'è gente che arriva bene, purtroppo non tutti magari curano quello che devono fare, insomma in questo momento anche a fare un minimo accorgimento ci vogliono sempre soldi. Io sono per attivare internet per riguardo, non dico cosa stesso, senza il computer nuovo, tampate, cavi, controcavi, ma sono per attivazione. In via 100 euro tra schede, schedine, balle varie, quindi per carità, bisogna avere un baracchino, fare due chiacchiere e basta con me. Lasciarlo stare così, no, ma se tu usi questo microfono che stai usando adesso, per me ti posso dire il contrario. Ma cos'è che era troppo nasale con quello di Palmare, l'originale della mitra? È tutta nasina. Figurati. Ma poi è andata lì, guardate, non era fermo, la caccia è andata a fanguarla. E quello che sto pensando anch'io, ma gli ho detto che si usarono le vongole e cazzo. Al limite a cambiarsi la cazzola, gli ho detto. Ma la fusaro, e gli piace l'altra cazzola, ma deve essere migliore. Abbiamo fatto un diretto e siamo ritornati in punta. Lei è un altarino, siamo per la partita tutti i giorni. Quella. Ciao, giù non ho parlato come zona identificativa, è tantissima, sono più giù, dopo più giù io sono, che ne prese, come ti posso dire, più su del vigile urbano, tra il quadrato e il vigile urbano. Claudio. tutto bene, perché c'ho tutto nel cofano, fare un negozio di carne a pesca. Avanti, Robert. Ciao Gianni, ciao Mario, ben sentiti. Ciao Robert, come va, come va? Questa decisione per l'antenna presa l'abbiamo. Sono stato messo d'accordo con un frate, infatti volevo chiedergli qualcosa. Ah, certo. Avanti, fra. Bene, Robert. Ma i tempi lunghi sono per la strada della Messe? Ma guarda, è una settimana massimo, 3-4 giorni ce l'hai qua. Vabbè, noi ci vediamo sabato, naturalmente. Se tu non so se vuoi ordinarla prima, vedi tu. Non so, se tu la vuoi io te la ordino, non ci sono problemi. Io domani vado e te la ordino. Ah, faccio di corretta. Se non ti crea problemi, se no passa da me, tanto lo sanno come sono. Non c'è problemi, se tu la vuoi io domani faccio partire l'ordinazione. Sì, ma non c'è problema, tu vieni sabato, mi dici quanto ti fai il prezzo e ti do quello che ti devo dare. Va bene, ok, thank you. 5 stavo parlando, no? Era manco fa 5, sì, sta tranquillo. Ma sai che non mi dava la trantonna? Adesso ti prende la Grand Plane, se non fai da bravo. Avanti la boomerang. Avanti Mario. Cappagatta, Claudio, però non sapevo di questa tua passione per la pesca, nella pesca delle elettrici, per i truppi, perché lui ancora, insomma, sono in fiamme, è la pura verità. Si inizia, piano piano, poi si vedrà. Ok, il microfono per Natalino per girare, cambio. Adesso bene parlando, sì, adesso il tuo segnale. preferiamo un po' allontanarci e stare un po' fresco, 2, 3 ore, 4 ore, giusto, per passare la serata. Intanto quando c'è la radio e sta lì in mezzo al caldo, c'è caldo, non si può stare qui e là, c'è il calore della radio, il calore che fa, è preferibile l'estate allontanarci un po' e prendere qualcosa, fare due chiacchiere, anche se non prendi niente, insomma, stare in compagnia, eccetera, eccetera. Molto bene. E tu Mario, non ci stai andando allora? Non ci sei andato quest'anno a pescare? Sì, io no, quest'anno no, con questo freddo. Mio figlio mi ha detto di essere scemo, ha detto che a caldo ci stava meglio. No, ma adesso come se iniziano a fare un paio di giornate così, e se domenica così sicuramente sarò a pescare. Con l'agnellino, intanto vado sempre al solito posto, o lì o giù all'Aghero, vicino allo stagno. Lì dobbiamo fare una puntatina con Gianni e Franco, abbiamo già deciso, anche cambia il tempo, facciamo una puntatina, anche quando è la settimana scorsa che è venuto mio cognato qua a casa e lui è di Alghero, proprio di Sottiglia, mi ha detto guarda, stanno facendo strage di orate lì proprio di fronte al Caliche, praticamente dove c'è quel muraglione grande che costeggia l'ingresso del porto piccolo di Alghero. Ma è lì, stanno pescando bene. Oppure al lancio direttamente da Fertilia, dal moletto che c'è a Fertilia e ci stanno pescando bene lo stesso. Ma qualche giorno vediamo un po' di fare una puntatina e di vedere appunto questa cosa se è vero, perché, vabbè, ma l'altro mio cognato lo credo, lui lo stesso è pescatore, ci va moltissimo a pescare. Vediamo un po'. Appena cambia il tempo, no, quest'anno Mario, ti volevo dire l'anno scorso, perché quest'anno è appena iniziato, l'anno scorso noi andavamo spesso con Gianni, anche con Franco, sono andato, che ormai avevamo sempre i stessi, io, Gianni, Natalina, Franco, K. Vabbè, vediamo un po' se quest'anno ci dà qualcosa. E tu invece a litigare tu e a drizzare, tu sei addrizzatore. Stavo dicendo, la pesca non giova nulla, dalla barca però. Ma pure a te ti piace dalla barca, e anche a Gianni le piace la barca. Quando c'è il mare mosso le piace a Gianni, vero Gianni? Ah, carizzai. Oh, yeah, come la bufera che ci ha preso l'anno scorso a largo di Alghero, non me ne dimenticherò mai, finta brighenti, ci ha preso una bufera di acqua, vento e mareggiata allucinante, la barca faceva come le montagne russe tra un'onda e l'altra. Mamma mia, perché non hai buttato? Ma niente, la mania di brighenti, c'è volume su brutto e stavo guidando io, capito, sono tornato io indietro, perché non ci voleva tornare, ah, noi siamo qua, passiamo. Mamma mia, no, uia, io giuro non vedo male, non vi viene a Cattolucci. Cazzo, stai dicendo che prendevo il mare di Rieco, cazzo, e puntava lo stesso. No, già, è al mare bisogna andare lì, maledizione. No, io non avrei resistito. Ha detto, buon amico, in prescia, per favore, perché ho terrore io. Tu immagini, ti ho fatto il militare in marina. Sono andato alla Spezia per fare il car, mi hanno imbarcato su Vittorio Veneto, una delle ammiragli della Marina. La prima volta che mi hanno imbarcato, ma io pensavo che eravamo lì, cioè, sai, ci stavano vicino. La prima volta che sono uscito in mare con Vittorio Veneto, siamo andati, allora era caduto l'aereo a Punta Raisi e quindi siamo andati noi, Vittorio Veneto, Garibaldi e l'Andrea Roia a recuperare Mosi, paramini freccia, paramini giubito. E qui ci devi andare, io prima andavo da un'altra parte, dove prima attraccava la Tirrenia, lì nell'angolo, dietro la Voletta. E lì si fermava sempre una nave militare. A una certa ora lo sapevo già la mattina presto, a mai una bandiera! E va a girare la musica, allucinate, ma papà, il comandante dichiara eccetera eccetera, e diceva tutta la storia, poi ormai la bandiera faceva la musichetta e dopo ce la fanno giù. Quello prende anche antenne e tutto quanto. Grazie per l'informazione, perché quello lo conosce vittima deluso perché proprio non c'hanno più niente, più nulla. Sono andato appunto per procurare un pezzo di ricambio per questo toccai. Siamo rimasti delusi nel sapere che prima che tutto, io quando ci andavo anni fa mi ricordo che mi si sbarrava un radiale con la manto, guardavo lì e me lo tiravo dalla faccia. Adesso questi figli non ti riescono a dare un chiello. Ma quelli lì, il radiale, se ti interessa non c'è da quello del codice. Comunque lo sai dov'è? È praticamente dove c'è uno spinge, la presenza. Signor sì. Ecco, vai dritto da quel marciapiede, vai in fondo e trovi la scritta diesel. Entri lì e c'è il negozio. Poi se ordina azione è quello che vuoi, ti ordina, non c'è problema. Preferisco iniziare da un poco, capito? Certamente grande distanza, mi interessa sentirvi tranquillamente tutti, capito? Se tocca le troppe pretese, se poi mi piglia la mano, ovviamente mi darò una mossa, però per adesso va bene così. D'altronde non ci vogliono questi mesi, io stasera mi sono fatto una bellissima chiacchierata con un'antenna di BM attaccata alla ringhiera e un apparatino così. Vabbè, comunque la mini grampa la vedrà di bici, perché l'ha comprata Roberto da poco, confermi Roberto? No, la cosa la Fusano, comunque ce n'era una di grampa più grande della mia, ce ne era rimasta una la Fusano, costa 40 euro, 45 euro. KK, provo a passare lì Roberto, non so se mi ascolti. Signori, dai, vi saluto, sono qua, finisce che rimaniamo accesi fino a mezzanotte, non va bene, domani si lavora. Ci sentiamo le prossime, dai, e speriamo di migliori condizioni. Un saluto a tutti quanti, in particolare a Claudio, ovviamente, che per me è stato un papà, ci tengo a dirlo ogni volta che lo sento, perché se lo merita. Io da lui ho imparato tantissimo, e non a fare il buffo da lui. Altri coetanei che si divertivano a rompere le scatole, a socializzare, dato che questo qua è uno dei più belli strumenti per socializzare. Buonanotte a tutti, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, lo prendo io, là. Ciao, ci sentiamo, dai. Alla prossima, fatti sentire, se mi raccomando, se ce la fai, prendi direttamente l'antenna con si deve, così non fai due volte la spesa, se vuoi un consiglio. Ciao, ciao, avanti qua. Che fa un altro del bianco, così diamo la possibilità a qualcuno se vuole entrare. Ciao, Mariano, un grandissimo, grandissimo saluto, un po' per piacere ascoltarti. Dopo tanto, tanto tempo, datti da fare e cerca di procurare qualcosa che ti possa servire per fare due chiacchiere, per fare un po' di compagnia nostra. Tante belle cose e un grande saluto anche al cuore, assolutamente Antonello. Alle prossimine. Allora, facciamo girare per Franco, seconda chiamata per Franco, avanti cambio. Franco lo riprende, Mario, a te il compito di fare girare. KK, io sono il cappellino, buonanotte, niente, tutto alle prossime. Stavo dicendo Gianni, ma c'è anche quello di Bradagneta, c'è Fusaro, o come si chiama, che vendeva antenne, vendeva apparati, vendeva di tutto. Niente, è quello di via 4 novembre, adesso non so se sono ancora trattati, comunque prima avevano di tutto e di più. Facciamo riprendere a Natalino ora, vai Natalì. Riprendo per fare il correttivo, me ne vado a letto, e domani mi aspetta una giornata un po' pesante. Vi saluto tutti, e me ne vado in correttiva. Salutone a tutti. Roberto, alla prossima. Vabbè, sì, quello che parla è monosillabe, dica che cosa. Stavate parlando di testa, non è che sia Bossanori, volevo chiedere a Gianni, visto che lui dice che non ha fatto la genifecchia, cosa usa per prendere le fecchie? La tottanara. La tottanara e basta, uso il gamberetto rosso. Sì, ma la tottanara modificata, cosa gli ha fatto? Sì, e dopo le ho messo io negli angoli di ave, come ci ha detto un pescatore. E ho visto che funziona meglio, ma la seppia, avendo i tentacoli molto corti, ha bisogno di essere accompagnata al corpo, se no si stacca. Ma quello per forza? Eh no, perché il gambero te lo porti su tranquillamente, perché con i tentacoli lunghi si aggancia bene. Ma poi guarda, a un punto tu dici fai entrare, io qua a Platamona faccio come le mie tasche, ci sono nato di lì. Ma non è a Platamona infatti. Non è a Platamona, è vicino a Platamona, ma non è a Platamona. Comunque lì se vai alle Rocette Bianche lì è pieno. Platamona, allora le Rocette Bianche io considero Platamona, tra la zona lì, i Banani, in cui, quella zona la conosco benissimo. Vabbè lì è pieno, ma molto fuori deve andare. Ah no, io quando facevo il pesca subacquea, ti sto dicendo, non vado lì adesso, però quando facevo il pesca subacquea, non vado lì tutto alle sette, cavolo, non facevo niente per stare a nulla di quella lata subito. Che io prima di sette, però sono anni che non ne vedo più. Ma deve andare lui, mi chiede a Claudio, ma la cosa non siamo andati a messa, io mi sono con un tipo che l'ho pescato 20 un giorno, allora gli ho detto, claro, ora che fermiamo e sentiamo l'ultimo, e lui mi dice ogni tanto, no, se non lo pescato se ne andava. Avevo fatto strage il chiudi, io lui da Salino e via dicendo. Guarda, ma di notte parli un risotto. Le scelte si prendono sempre di notte, si prendono quando c'è freddo. Ah, ma tu stai parlando per il giornale allora? Ma che giornale? Fine stagione, là, settembre, ottobre. Io ti posso dire che andavo a fare fotocassi bassa, però la trattavola a poco e lunga la chiusa di stessi. Perché ho lasciato di posti. Io trattavo una, ho fatto pescare su barco e ti dico il contrario. Sapevo le tane, c'era una tana che sapevo che era Torassa della Ruccia, era scalvata così di obliquo. Guardavo sempre dentro, c'era sempre la seppia, ogni volta che andavo ti bigliavo da cheduna. Io con la tua tanara non ho mai più bigliato, tutti quanti di voi, ma tutta lo stesso, ma seppi mai? No, anche le seppi. Lo so, non è tutti che lo sanno, io l'ho scoperto perché mi stavo pescando, capito perché? Su quella zona della tutina ci vado spesso, però andiamo a prendere tutti, a prendere tutti e tu mai pigliato. Adesso non lo so se ce n'è, però io ne sono tornando di a Platamona, sto andando verso Porrottone, capito? I punti altri si sono portati più avanti, verso di fronte al porto, in quella zona lì, l'acqua alta, almeno l'ultima volta che sono andato io, li ho presi lì, tutto il resto verso la torretta di lì era io, tu non era nulla. Sì, ho giubilato un po' e poi io, di 5 kg, e ti basta. Ma con la portara? No. Se ti dico come l'ho preso non ci credi. Ho messo un pezzo di sardina, che ho buttato praticamente due canne a largo, e con diverse esche, no, con, non mi ricordo se ci avevamo cannolicchi e colgio e verme e poi americani e poi ho messo una canna a pelo di banchina con la sardina messa a 0,35 con cucchiaino per farmi da segnalino, ho sentito che ero a camminare, sono andato, tirato e mi si è agganciato, è venuto quel mio amico di notte, a luna di notte questo qui, è venuto un amico mio con una pila, ha controllato, mi ha toccato già, altro che agganciato, e mi ha dato un abbesso di bolto, tira il tempo in tira, che aveva tutto in tira, per un bel po' poi ha mollato, mi ha messo il corpo sotto, se ne saliva dal corpo, allucinato, una piovra, badi. Io il più grande che ho preso eravamo due, ho un po' da 28, però la cucina l'abbiamo preso. Era lì a uno che c'era la mania di 78 di 2 kg. Vabbè, comunque, io ce l'ho fotografia anche quando ho sotto fuori tutto quanto, non è che mi ha fatto la fotografia che ho portato in mano, non ho bisogno di mai, mezzo busto mi colpiva. Ma come da 28 già c'era anche io la fotografia, aggiungo anche quanto vuole, una bestia, sott'acqua faceva paura, e non avevamo aperto la fuori con i due eravamo, se non ci riuscite. E ti fanno loro, non ce li più. Vabbè, va, ripresi qua. Infatti, ho visto certe fotografie di Gianni allucinanti, grandi pescate. Ci vuole un po' di tattica, un po' di... di cosa, non è che lui usa delle esche allucinanti, però sa pescare, è così. Io quando andavo con lui, che mi seguiva, a volte mollava tutto perché doveva tirare su, più di una volta l'ha perso tutto perché era disturbato, altrimenti ha sempre fatto delle buone pescate. E così come Franco, Mario non lo so, non ce l'ho mai andato, ma Franco è un grandissimo pescatore. Franco, che ci hai fatto? Stai mangiando bomberotti? No, è arrivato Giovanni, qua, infatti me lo vuoi riprendere poco fa, è arrivato Giovanni, stavo parlando di verità, di alcune cosette, capito? Sì, stavo ascoltando dalla pesca, che mi cambiava a pranzo e tutto lì. È tutto pronto, Ottavo, non ti preoccupare, tutto sotto controllo, anche i filacciuri, tutto a posto. Pure a Gronghi dovete andare. A Gronghi? Sì. Io i filaccioli, ma i Gronghi sono si guardano, ho proprio pescato. Ah no, pensavo filaccioli a quelli svegli, per i Gronghi. Io a Gronghi non ci guardo già, che non mi piace, non manco manca a finirli. Io c'era un periodo che quando andavo a pescare a Molo Cattaneo, io mettevo sempre due filaccioli attaccati al muro, infatti questi gatti inciampavano, il grumbalazzo l'ha attaccato e poi le chiave le buttavo lontano. Cazzo, roba di grombo, una volta mi ci ha attaccato. Ogni altro, un'altra volta la gatta mi ci ha attaccato, un po' per uno ha fatto, dice un paracadute. Con la sardina, vedi, senza avere cose a protese, con l'amma in punta. Cavalava. Ma se per prendere il grumbo, basta andare lì alla roccia del bianco, 4-5 filacciughe a sorbinettiere, te ne vai a cascettone. Ma ti dici grumbo da 8 kg, burro, Lo so. La murena è che non l'ho mai preso. No, non sono mai andato io a fare quella pesca lì. Se vuoi passare Murena, devi andare alla parte istintiva, quella zona ricoce di donna. Sì, a chi si andi alla parte di Castelsardo. Io trovavo la mattina, quando andavamo a Castelsardo, nella battiglia, tutti i grunghi arrostiti, magari che riciclano male, Murena, di tutto. Da noi se ne pescavano, se ne focuscivano lì, e tutto il nero del fuoco, come si faceva il fuoco in spiaggia. Ciao. No, io stavo preparando le filacciole orate, capito? Ho preparato poi le filacciole per le orate, poi ho preparato una canna anche a galleggiante, così vogliamo poi fare qualche poco di sarraghi anche quando vado, di notte. Anche quando comincia a migliorare, comincia a scaldare, qualche notte me la voglio fare una pescata. D'accordo, chiedi a Claudio qualche volta ci siamo trovati a pescare giù a Porto Torre. Sì, per carità. L'hanno preso le due di quelle orate già, tutto il tuffo di magnano in gioco. Gappa gappa, e anche Steven ne ha preso, Carletto, ti ricordi Carletto quando veniva a trovarci, che gli dava la carne e si metteva a pescare anche lui? Ma lui pescava, Carletto è bravo a pescare la filopanchina. Gappa gappa. E comunque io non mi vanto, però non vedi niente, ne ho fatto anche le scarpe pescando, capito, video? Gappa di positivo, già lo so. E c'era anche quel mio amico bravino, o Francesco, che ne ha preso un bel di orate. Vabbè, tutte le grosse, lì. Ha pigliato anche una spigola da 5,7 kg, sempre lì. E a me che mi fregava la sveglia, capito? Perché se no se scendevo di mattina presto alle 4, qua io bugivo anche dico, prima andavo di notte e ne portavo qua la mattina 5, 6, 7, 8 orate grosse. Franco, sveglia, conosci quando sei stato del Bopo? Bopo? Ho visto che era nel mestiere tuo, nel campo tuo, era almeno il campo lavoro che facevi prima. Vabbè, adesso non mi viene. Ho capito come stai dicendo, sì, molto bravo anche quello. Ho detto, gli amici Bobo lavorava la Nicola, ti ricordi? Ehi. Sono di sicuro che è un nastro. Già è bravo, anche orate e pesca lui. Cosa sta facendo adesso fra lavoro nuovo, cosa fai tu? Elettromeccanico io, sono alla Zanussi. Fa. Lavoro alla Zanussi? Capo è positivo, 18 anni, quasi 19, dai, per l'esattezza. Prima lavoravo da usare, ha detto. E quando ero ragazzo, avevo 18 anni. Non da poco, no? Da un bel, adesso ha chiuso mio cugino che è stato male, praticamente in carrozzella. È stato male, davvero? E ha avuto due ictus. Non mi dispiace. Cavalava. Infatti il negozio è venuto tutto lì, praticamente, capito? Ha un figlio di lì adesso? No, il figlio mi tira il fuoco. Non c'è un negozio adesso? No, il negozio aveva venduto lì. Ma tu cosa stai dicendo? Da 4 novembre, dove stai dicendo? Da 4 novembre, dove c'era la CISL, la CISL. Ma il negozio di fronte non è il suo, lo stesso. No, era proprio sotto i portici che c'erano lì. Ma non so bene dove era, ci andavo un sacco di volte. Ma questo di fronte non è il suo, perché? No, era attivo. Pensavo si fosse trasferito lì, chi è il pallone in quel locale? Non lo so, Roberto. Ma conosci tu anche quell'altro lavorava la Zanussi, Gianfranco? Capo è positivo, ma Gianfranco lavora con la Zanussi piccolina. Non sono amici. Io faccio roba industriale. Capo, anche a Italia sono riconosciuto allora. Capo. Abbiamo amici in comune. Quello lì praticamente lavora con la Zanussi e fa roba piccoli, c'è l'assistenza della Inghilterra anche. Zoppas, tutta quella apparecchiatura lì, capito? Se sbaglio, sta lavorando contro il suo, che non sta più facendo niente. Perché poi avevano bisticciato la fine a quanto ho capito. Non so come stanno a finire le cose praticamente. Infatti non so tutto, mi sa che si sono affatti. A me mi ha dato una mano lui, ha portato una pompa di calore, la sua tornatura me l'ha fatta lui a casa. Ma è bravo, l'ha fatta in gamba. Sì, sì, no, una brava persona, non c'è niente da dire. Cava, facciamo girare tutto per Tower. Avanti Tower. Ah, ma c'è un mezzo. 10 euro. Capirlo bene. Ma non è una portata, tranquillo. Capo. fai, vabbè, poi non fa niente, non c'è problema. Ascolto, se mi metto la parola rimango in ascolto e basta. K, capito, quindi era bella anche in chat, perché parlavo come il barattino, mi potevo anche vedere. E diciamo che un po' si fitto tipo barattino, Ma quel sistema non mi ha mai potuto chattare, non mi ha mai appassionato. Ma hai provato a chattare e a parlare col microfono? Sì, ma cosa hai fatto tutto? Ah, io sì, più o meno, là. Comunque parli tranquillamente e con la persona ti puoi anche vedere. Io l'ho fatto per questione di lavoro, però non è che sia grande appassionato. Solo per obbligo l'ho fatta, però non mi piace così. No, a me già piaceva, quando lo facevo mi piaceva, anche se ti va l'apparato, capisci? Ho trovato anche degli amici che abbastanza in gamba, perché puoi trovare tutti i colori, quindi... Però ho trovato delle persone veramente in gamba, mi sono trovato bene per quello. Web camera, così? Sì, web, usavo il microfono. Guarda, la mano calda. Ma no, io pago sempre lo stesso tanto, pago 32 euro al mese. E lo posso usare tutte le ore che voglio, lo posso lasciare anche acceso tutto il giorno. E pago sempre lo stesso. Ma non pago pubblicità troppo di altre cose. Amore, non ti sbagli, lasciamo a casa, non mi interessa. Lui quando l'ho fatto la due cose solo quando la uso. Vabbè, noi mani lo usiamo parecchio, lo usa mia figlia per fare le ricerche di scuola, lo usa mia moglie per lavorarci, lo uso io per entrare nei bighi, infatti a me mi chiamano i bighi a casa. Vabbè, ma come una cosa, non fa come una cosa, ma nessuno lo fa in vuoto. Chi l'ha detto che no? Io già lo uso, sempre. Vabbè, d'estate già me ne vado anche a pescare, io già lo uso, ogni tanto entro in siti, spulcio, faccio. Mi piace, là, mi piace stampare, fare la cosa che mi interessa, tutte queste cose qui lo faccio. Diciamo che non sono un grande genio, ma riesco a fare qualche cosa. Farò buono, perché mai tu Luca l'apparato che ti ha preso lui ha pagato una fesseria, cioè, come hai fatto a prendere tu, una fesseria, non ha rilanciato nessuno già. No, già l'ho rilanciato, ma io l'ho preso per 40... Non mi ricordo se era 46 euro, lui veniva 50 euro e 50 col viaggio. Ma era possibile che nessuno si sia accorto di questa storia? Io sono Jack Rosetto. Io l'ho preso all'ultimo momento, lo stavo seguendo, all'ultimo momento l'ho rilanciato e me l'ho giubilato. Ma per convinto che con la stazione fissa, guarda, 23 li rilancio hanno fatto. Ma alla fine non sono rimasto, ci vanno a più tardi, ho solo preso uno. Cioè. Quello di Luca è bello, Quello di Luca c'ha frequentime, c'è tutto quanto, è un bel bellino. Ma quello è bello, infatti me l'hanno scritto, io l'ho visto solo su, come si chiama, su eBay, però è bello, c'ha frequentime, c'è l'arancione, mi sembra, no? Ma io non becco un altro, già me lo prendo anch'io. Anche se mia moglie mi ha detto cosa, perché se cosa te ne fai di questi apparati, quando ce ne hai due, basta, ne avanti. Allora, quando ho qualche conto e soprattutto soldi, guardate vicino a come sta prendendo uno fisso, una persona fissa bella, la sua pensiva con quelli più monti seri, mi faccio valore. Quello sono io di tutti, anche io sto cercando, ma voglio anche le bande laterali, capito? Guarda, le prendo io, vi saluto, mi sto passando 644, saluto Claudio, saluto Gianni, saluto Roberto, saluto Di Mario e saluto tutta la compagnia tipica. Quella ruota, lo proseguo a tutti, io per me QRT, causa 144, ciao a tutti con la buona sera. Ciao Franco, buon QRT, ci sentiamo, vai, avanti Mario. Ciao Franco, buon QRT, buon tutto e buona giornata per domani, alle prossime, ciao, vai Torre. Ciao Franco, buonanotte, ci sentiamo alle prossimine, aspettiamo sempre da Franco Berta, anch'io. Senta, allora, Roberto, riprendi, facciamo fare a Franco e poi riprendo io di nuovo. A Franco, alle prossime, buonanotte, ciao. Stavo dicendo, Cla, adesso cominci tu a comprare, mi voglia. Come è stato io, tra l'altro, comincerà anche Franco, del turno, va per me. Stiamo insegnando come fare, come non fare. Ma Roma, ma si deve lanciare, mi ha chiesto subito qualcosa. Domani torna, domani dopo pranzo. entrare prima sull'elettrodomestici, eccetera, eccetera. Poi c'è scritto CB oppure CB radioamatori. E tu, praticamente, se ti CB ti dà un numero di apparati, se entri in quello radioamatori CB ti dà quelli di CB più quelli dei radioamatori, capito? Bravo. Lì sono entrato già, poi mi ha fatto vedere altri siti, mi ha messo la posta elettronica, tutto, è attivo, tutto. Dimmi, Robert. Se non vuoi prendere tempo, ti interessa qualche apparato particolare, basta di lui di chi noti, Guaronzo, CB, Guaronzo, oppure CB, quello che vuoi tu, non fa guardi tutto lo paghi, da poi ci fa due giorni. Vabbè, ma è bello così, cioè vedere che cosa c'è in generale, dai. Sto imparando, non è che sono un genio io. Le cose che praticamente so fare sono quelle inerenti alla radio, PRS, parte perché sono già da qualche anno che ci vado tranquillamente, anche se ho ancora tanto da imparare, per fermare il computer e non è che la prima dubbi, però con l'attività che faccio mi serve. Adesso mi sono inserito su internet e piano piano iniziamo a navigare anche lì. Comunque è una bella cosa, c'è tantissima roba, quello che vuoi apri, vedi, insomma trovi. Questo è bello, io non l'avevo mai visto. È favoloso, c'è di tutto e ammazzi un'oretta lì anche qui, infatti proprio io ce l'ho qua in radio il computer, quindi adesso devo metterne un altro, con questo grosso lo tengo per internet, mentre l'altro lo sposto per fare attività radio che è più piccolo e capito, così ce ne ho due e non sto lì, li tengo accesi tutti e due e posso seguire tutto tranquillamente. Terminato tutto, adesso mi sono attaccato la cantante, perché domani passano volante franco, un'oretta, mi fa gli ultimi controlli e poi abbiamo fatto tutto. Va bene, Mario, riprendi, beh tu hai poi risolto, hai fatto il problema col telefonino, va bene, alla grande funziona. Sperando che i dolori ti siano passati. Ciao ciao, buonanotte. Ciao, speriamo. Ciao a tutti, buonanotte. Allo prossimo, buonanotte. Comunque una buona notizia, la Juve è fuori dalla coppa. Una buona notizia, perché tu ci guarda allora. Meglio così, meglio così, non c'è problema. Ci vinciamo il campionato e siamo più tranquilli. Ciao, buonanotte. E poi mi guarda, poi scappa. A me non mi interessa poco il calcio, a te Mario, ti fa lo sì. Ah, io sono 2 o 4 volte. Anche a me quelli piacciono. Già mi piacciono anche a me. I motori mi piacciono anche a me. Ti stavo dicendo poco fa, stavo pensando, separando il motore della barca, perché non ne metti un ausiliario di quelli piccoli? Ah, è un ausiliare. Al posto dei rini. Perché devo fare tutto un piccolo lavoro, perché a una parte ci ho messo la scaletta per poter salire, perché come barca è alta. Quando mio figlio si butta in mare a fare apnea, lì veniva male a salire e ho messo la scala. E all'altro lato devo trovare quella placca, che non è difficile anche a costruirla eventualmente, con delle strappe e mettere un motorino ausiliare. Appena che ho l'occasione glielo metto, anche perché non vorrei che vado lontano e poi rimango in panne, non si sa mai, ci vuole un attimo. Mario, lo sembra che te lo sto dicendo? Sì, dimmi. Perché io sono rimasto in panne a largo, a 1500 metri di profondità era bravo, stava facendo il volentino, col volentino pesante però, potevo a mezzo chilo, eccetera, eccetera. Andiamo in che non potremmo tirare la cacca, ah, che dice tutta chiave, capito? Gira con la chiave il motore. Scendo giù dove c'è, nella cima dove c'è la batteria, dove c'è la batteria ossidata, con la chiave c'era per volare la batteria, no, cazzo, con tutta la frutta di una lunga, se la mossa appena ho messo giù più di morte, era lucido. Siccome l'aveva avuta a seconda mano, lui non si era premunito di guardare se la batteria era messa bene. No, allora, io appena che ho comprato quella barca, sono uscito, la verità, l'anno prima io avevo un'altra barchetta piccolina che poi ho regalato perché me l'avevano rubata, me l'avevano fatto casino, mi avevano rubato tutta la tastatura di bordo e via dicendo. E niente, poi per finire l'ho portata lì vicino al capannone, l'ho messa fuori perché in quel momento non c'era lo spazio per metterla dentro e l'ho messa fuori. E sono andati col seghetto, gli hanno tagliato le alette del coso della barca e mi hanno rubato via il comando del motore. Poi ho pigliato quest'altra barca che ho fatto un affare, perché ho fatto un affare, perché è pesante e per metterla in acqua e per toglierla ti devi fare il bagno. Però è una bella, comoda, stabile, perché è uno scafo da alto mare. E niente, ho messo quel motore che c'avevo, però non mi sono munito di fargli un controllo. Appena gliel'ho messo in acqua, ho pigliato, partito e sono uscito. E per fortuna che ero vicino, perché il giorno avevo intenzione, perché avevo comprato la Totanara e la corsa, la polpara, e mi sono messo proprio come vicino al porto, vicino a quei lassi. Poi sono andato a ripartire, cavolo, non partiva più la barca. Che cosa c'era? C'era il galleggiante che si era bloccato e praticamente non faceva passare la benzina. Un casino, è toccato a tornare a Rimini in porto. Ebbene, non ce l'avevi in battuta per schiacciare quella specie di cosa che c'è per farla passare? No, perché era all'interno, il galleggiante è all'interno del carburatore. E nessuno? Ci siamo tutti. Niente, non ci senti parlare, ti dosso. Ciao, ciao, buonasera a tutti, no, buonasera a tutti. qui si prende. Ciao, ti buonasera. Avanti, Mario. Mario! Lui l'ho passato, io ricco porco. Anche tu l'hai passato, io non bevo. Le orecchioni ti vengono, Gaffri, ascolta. No, di là di qua ero... eravamo di arrossimento fuori, quindi e poi facendo la radio, così hanno scalda per la pea. La senza che c'era gente, quindi sono situato in mio fuori, sono portato e mi ero ripreso. Avanti, Roberto. Ciao Tino, ben sentito, sono assunti. Ciao Roberto. È proprio... di poche parole, Roberto. No, vabbè, oggi non mi ha fatto quel difetto di ieri, perché non c'è vento, quindi sono riuscito a togliere fuori. E affogliato. E anche tu devi decidere, da un partito a Giosu e poi la nuova. Okay. Sempre la priorità alle cose urgenti, non è che sia, ha ragione anche tu, ma oh, non è che si male, ecco, anche con l'antenna, diciamo che si dà questi problemi ogni tanto. Caraggia, uscire male non credo, uscire male no, e purtroppo la recessione che ha voluto, per dire tu fai la 9, a Santiago 3, poi a 1, io non ti sento neanche, capito già? Se non c'è massa probabilmente, magari c'è anche qualche cosa di massa che fa male massa al PL sopra. Sì, ma è quello il fatto. Ma vedi, no, non puoi segnare lì adesso, da te. Se ne scondo appena appena. Allora, va bene, guarda un pochino. È 9.30, sì. Quindi, uscirà la nostra. Non credo, aspetta, qua c'è Bassione. Adesso mi devi qua, però adesso già. Adesso sei 9.25, 20, là. Vabbè, va bene lo stesso allora, sono almeno di 5 watt, si vuole. Ma per ripeto, l'antenna, vabbè, spinge, solo che la recessione. E c'è vento, una tannata e mi puoi segnare. Mario, quindi. Mario, è qui. Comunque si sente un piccolo rumorino di alternata, forse è l'alimentatore, c'è l'apparato vicino all'alimentatore, non lo so, e c'è vedi anche un leggero fischiettino sotto. Più piccolo che ha fatto la Volvo Penta, c'è serbatoio da 80 litri all'interno, però lo devo portare a farmelo controllare perché io non sono riuscito manco a filarlo, così che perde un goccetto giù alla parte diciamo esterna della barca là, verso dove c'è il volante. C'è un piccolo buco che deve essere che avevano provato a saldarlo, però non ci sono riusciti a eliminarlo, e piscia poco poco di benzina, però la benzina dentro la barca è pericolosa perché io fumo e non si sa mai, ci sono fili elettrici e no, allora ho messo quel serbatoio piccolino, che poi piccolino ne ho due, uno da 20 e uno da 10, e quando esco voglio essere sicuro di poter ritornare anche se mi allontano. E niente, e a pescare a Pulentino, in inverno quando c'è qualche giornata buona, tipo domenica, se fa una giornata come oggi me ne vado a pescare. Oggi c'è la bella, Maccio. Oggi la bella. Dani, riprendi tu, a fare a farmessa. E io riprendo quando fanno le belle giornate. Sono ancora in macchina mia dell'anno scorso. Adesso le salgo a casa, le metto tutti a bagno i CVC, i mulinelli, e dopo rimetto il grasso, tutto quanto come ogni anno. Me le preparo e poi sono pronto a partire. Ma chi c'è altro? Ci sono altro? C'è Roberto Quadrato, avanti Roberto Quadrato. Sì, no, ma stiamo facendo qualcosa, perché da 3 sono passato a 5, da 5 a 7. Ma io adesso quanto sono? Ma io adesso sono da toccanti, senza toccare niente. Adesso sei 5, saltiamo 5. Se ne vanno così è abbastanza decifrabile, è buona. No, posso fare, ho andato a toccanti per far vedere a Mario la differenza, niente di più. Ma no, lo sto tenendo basso, l'antenna non me lo permette, e quindi non voglio lasciare così. No, così va bene, lascialo così, no, ma quando arrivi così, arrivi male, c'è troppo di disturbato. Non ho capito, vabbè, quando arrivo... Se diminuisci ancora un po', non ti prendo più. Ah, diminuendo? Si cassa, perché di tubo ti sopravvassava. Ma non la faccio così, che sono 5 watt, non 2 watt, già va bene, poi dipende, se ho guardato un attimo la radio, veramente 5 watt, ma come va bene. Allora così va tutto bene, lascialo così, perché prima hai diminuito troppo, non riuscivo a capire niente. Ma è scappa, va bene. Chi era l'altro? Chi volete fare? Avanti. C'era uno che ti voleva sovramodulare, ma non ci riuscivo, Roberto. A che punto è? Gianni, dopo battiti sulla pesca tu, al molo? Io vado al molo, vado a Pattaona, vado dove capita, al Ghero, dipende. Ma diciamo che quando esco dal lavoro alle 7:30 è l'ora più buona e me ne vado lì al molo che è più vicino, due passi, scendo giù dalla piazza e sono arrivato. E alle 7:30 è un'ora favorevole, dalle 7:30 in poi l'anno scorso mi chiedi a Claudio le ombrine che ho prese, tutte massicce, tutte belle grosse. Che male vai già? E vado, hai visto dove è attraccata la nave francese? E mano lì a fianco dove ci sono le rocce praticamente del passetto lì. Cane, ma tu già qualche cosa ma me lo sta provando anche la lenza, io passo di lì mi con la barca, ce l'ho lì da barca. Lì ce l'hai? Lì ce l'ho, mano di Nuvuli. Sono comunale, non so dove. No. E lì al passetto, è quello dove ci sono. Allora, quando tu arrivi lì, tu hai il cantiere navale, entri lì a piedi o col motorino e scendi fin giù, e sei al passetto praticamente. Ma non ti vale? Non posso parlare, che me la busta per il muro. Scusa. No, dimmi tu la metti dove c'è l'altro condale, dove metto la cosa, la lavora acustica. Io ce l'ho in quel passaggio lì, e tu ti metti lì dove ci sono quelle rocce affiorate. Ehi? Non so quanto lento ha lanciato delle uscelle, perché prima sono tutte inchisi, le buttano sotto, io non so cosa passare lì, non so quante volte mi sono attaccato, ritubato a cavalli si trovasse. A Palla non è mai bussato, però la cantata un bel di volte, le lenze, tantissime volte. Se ti fanno l'elica poi ti blocca tutto. Non è mai la il motore, entri piano piano, devi fare un conto a segnare. Il problema è che lì qualche cima è capitato, però con quel motore lì non va venuto. Che motore c'è, Roberto? È grosso, l'elica è grossa. Al limite è un po' di fastidio per toglierla, ma mi faccio il dubbio. Roberto, che motore c'è tu? Un giorno sono 70 cavalli. 70? Allora ci vuole il patentino. Sono patente io. Ascolta, dimmi una cosa, adesso che tu c'hai il posto lì vicino nel molo comunale. C'è il tontino comunale, prima tontino c'è. Non è che se c'è qualche posto, no? Che così, se mi giro la metto in acqua, la tengo tutta la sette lì, perché così faccio, o se andrò a lavorare non la pigliami la barca, per non fare sempre col carrello. Allora, tutti non ce ne sono, sono per misure grandi, ma non conviene, cioè, se lo vuoi togliere dato la tontina numero 5, però ti costerebbe troppo, ti fanno pagare tanto la barca di 8 mesi. Positivo, no, io c'ho quello lì e mio figlio mi sta tantaggiando 5 miglia, perché quando arrivi che devi portare la macchina sul carrello, è più leggera, è più meno fastidiosa sollevare, perché già è fastidiosa così, figurati se ti metti un motore più grosso. La tua cosa contro un crimine, a me è indispensabile un crimine, perché la barca la facciamo uscire prima, planare, ma la barca come la tua va benissimo senza il crimine, sono soddisfatto. Vabbè, è 5 metri mi lo scappo mio, è quello costruito dalla Volvo Penta, è quello che faceva il film di James Bond, o me. Ma la notte già lo conosco, non lo so, sono va benissimo, lo dico siccome magari non la devi fare tu, non è necessario, la barca plana subito, non ha problemi di planarsi. Per il positivo, no, per quello già va bene, non è che, e poi come hai detto tu non devo fare gare, e per riuscire a pescare, e buf. Allora non ci si sta contenendo, perché la mia plana molto ritardo, la plana 18 l'ora la barca mia, per cui il primo non va bene, sennò ti va male. Se lo pulisci bene, lo grassi bene, e gli fanno dei i cementi, quelli tipo bricolaggio, cose del genere, e un po' riesce a tamponare, almeno a tenere un po' la cosa, però deve stare attenti. E gli sta anche a farlo liquido. Sto dicendo, però deve stare attenti perché basta una ferita di vapori e prende fuoco tutto, sto attento, non c'è a scherzare. Facendo fatta idraulica in acciaio inox di finta, ma con l'altra idraulica faceva, ha fatto punto in 40 nodi. No, già spinge. Allora, se c'è guardato la velocità, infatti io con i bambini, sono portato le bambine, a parte ci cammina piano, sono preso il bottino tutti e due, se prendo un'onda male ti cado nell'acqua, lo sì. Quindi io mi sono perso il suo amico in mare. No, è pericoloso, a parte io sono troppo attento al mare, mi piace anche camminare, però con i bambini piano piano, se gruppi bene, ragazzi fissati bene, e sempre col cinturino, anche se siamo fermi. E i bambini sono sempre vivibili, non ho bisogno ma così cagionare. Infatti stanno dietro, la più grande la metto vicino a me davanti, l'ho fissata bene, c'è nel marignone, e la piccolina sta la madre, anche se non avevo mai il cinturone di salvataggio, lei è sempre da consiglio, l'ho fatto brutto perché c'è caldo, però sempre col coso, col cinturone, la cintura di salvataggio. Vabbè, ha perso l'amico tutto vestito per giù, sei caduto in acqua, sei girato per scale, caduto in acqua, erano fermi meno male. Sono vedi burulla, anche io ci sono caduto dal forte in acqua, salendo sulla barca, stavo saltando, cioè non avevo ancora la passerella e ti sono preparato un vestito intero. No, è schifo, poi da quanto lì ho fatto le ore. Sì, no, vabbè, però tu gli hai mai arrivato una bella luce. Te l'hai fatto anche prima. Sì, ma mi sono come ti sei entrato lì, ma ne sono uscito tipo l'uomo dalle acque, ma ho fatto, non mai contento di entrare qua fuori. Esatto. Ho rischiato di farmi male perché stavo cadendo la faccia a terra verso il motore, per salvarmi la faccia ho messo la mano, mi si è girato il dito, quello che mi ha fatto male, ma per il resto i vestiti li ho tirato. Ma io già faccio dei bei salti, io me l'avvicino prima con la cosa e poi salto. Ah, ma la cosa mi si pensando, anche io già sono abbastanza agile, saltando, mi sono rialzata la scarpa al rubinetto della colonnina e mi ha messo, mi ha fatto prendere il tubo e toccare la faccia a terra. Aspetta, la scarpa, non la vedete, ci sono le colonnine di lì, delle, per l'acqua, per la luce. Ora il tubo dell'acqua mi si è agganciato e sono caduto per quello. Ma dove si trova? Pontile Galleggiante? A Pontile Galleggiante sono io, al primo pontile. Marco Morano. No, la Cormorano, adesso si chiama la Darsena, la prima, la Cormorano non conviene mettere, a parte con San Marino, è troppo male, l'ho messa al comunale, quello che c'è il tuo salone grande, l'ha visto di Rumuni, la gru, la prima gru, non la seconda che hanno messo vicino alla capitaneria. Grande, e ci sono tutte le barche con le abusive, dietro il muraglione, verso gli altri fondi. secondari dove va a pescare gli anni, e lì hanno fatto i ponti lì valorizzati, ma non adesso, ci sono già da un sacco di anni, saranno minimo 15 anni. Io dico, c'è la barca di lì, qualche buco si riesce a trovare. Tocca la poppa per terra quando vado a scavellarla giù. frizioni, freni, eccetera, eccetera, del carrello e tutti illuminati la macchina. No, freni non ne ha, ecco il carrello, è quello ultra leggero. Ma quelli nuovi senza freni sono. Papà, tu mi sono andato in cuscinetti, perché lo so quando succede quanti cuscinetti di sotto le basi a me, col gommone prima. Non riuscito a toccare l'anno da 3 mesi di vita a Langhero, nuovo, nuovo, proprio comprato nuovo con tutti i criteri pulito sotto l'avvasto, al ritorno me ne ci dà la russa. Che cazzo! Io sto scherzando, guarda, io ogni volta che lo usavo in officina rientravo con l'acqua a pressione e lo lavavo, questo attraverso il grasso, sono 3 mesi di vita. Stavo rientrando a Langhero, ho sentito di quel rumore, in terra, e non uscita la ruota contro Langhero, la prima non ammazzo qualcuno. Che cazzo, mette il collo! No, io, a parte che quando c'è la barca, perché è grande, corro, cammino un bel piano, e poi, anche perché non voglio rischiare niente, perché se stai correndo, e dovesse succedere qualcosa, anche di bucare, succede un casino meno. Sto parlando mentre ci passavo camminando a 30 all'ora, si deve vedere, non correndo, camminando piano, sentito questo rumore, tutti, e poi dico, lo faranno in corsa. Così, ma... Cappa. Sicuramente la stessa base che tu dici in luglio, come quello che ho studiato mio fratello, molto simile. Sono scappi che funzionano meno quelli, sono grandi che battono meno al mare. Esatto, è uno scappo di alto mare, costruito dalla buona offerta, perché su quel scotto dove c'è cosa dall'accensione, che accendo le lampadine, via dicendo, e c'è scritto proprio buona offerta. Sì, qua, ma male che sono ricercati, le barche le stanno cercando, le stanno restaurando, le stanno mettendo da nuovo, perché ci mettono tante cromature, tante manopole, tipo un riva, non so se riconosco. E mi sembra che, adesso non me lo ricordo come si chiama quella barca, me l'hanno detto perché me l'ha detto un vecchio pescatore. E mi ha detto, questa qui è una barca famosa perché era una delle prime barche che ha usato James Bond nei film con Sofia Loren. Ma non me lo ricordo, fa un nome americano, perché me l'ha contato uno che però non me lo ricordo, se sta vecchio. Agappa, agappa. No, comunque è bellina, qui è molto spaziosa. Casomai quando sarà la vedi e poi mi dice se è quella lì e stavi dicendo. Io so che ce n'è una d'Alghero, che è di un pezzo grosso, che se l'ha comprata e la sta facendo riparare tutta quanta nuovo. Quella di Alghero sta presa con l'amico mio, 2 anni fa l'ha presa, se stavo parlando della stessa barca. E capa, a me mi ha detto che la stanno rifacendo fare al nuovo, perché me l'ha detto quello che è il distributore marini, Luvuri, non so se lo conosci. Sì, sì, lo conosco, è salvato da Luvuri. Capa. L'ha presa l'Alghero 2 anni fa questa barca, è celeste lo scafo, E capa, è celeste e poi sotto è bianca, è precisa la mia, e mi ha detto che la stavano facendo rifare tutta quanta nuovo, perché è un bisù. No, io quella mia, l'unica cosa che dovrei fare, diciamo che fargli la verniciatura nuovo, perché col tempo è un po' screpolata sopra, e qui per il resto va bene, e vorrà cambiare la guarnizione del parabrezza, perché si sta polverizzando. Allora, io sono contrario, io sono carrozzere, però sono contrario a verniciare barche. Secondo me gli dà una lucidatura profonda e riprende aspetto la barca. No, ma non è nei fianchi o nei corsi, è che è sopra, il piano di sopra, tutto quanto il mondo, specialmente lì sul davanti, che è tutta screpolata nella vernice. E io per quello che stavo dicendo di dargli una limpiata, poi al limite tu sei carrozziere, non lo so, me lo consiglierai tu cosa bisogna farle. No, sotto la parte superiore dove tutti i piedi, diciamo le parti d'alto si può fare, ma i fianchi assolutamente non fare mai. Si può dare direttamente la velice con la buona, con l'antisruscio, così ti fa anche un effetto praticato. No, ma il fianco è a posto qui, il fianco è sotto, è a posto come cosa, non è che c'è da fare chissà che cosa, è sopra, quando ci stai saltando sopra, hai capito? E penso di davanti che è un pochettino malmesso, che si potrebbe dare una piccola rinfrescata e boom. Sì, infatti, lì sì, va bene, mi manco le vernici direttamente con l'antisrucciolo, con la forma dell'antisrucciolo, così si ritrova il giovanissimo. Però i fianchi basta solo lucidarli, tanto sono fatti che sono non la prendono. Questo. Capo, quelli lì sono parti che rimangono in acqua e buco. Capo, poi la carona se devo dare l'antivegetativa, ma se non la tieni in acqua non c'è bisogno. No, infatti io se trovavo il posto per tenerla tutta l'estate, le volevo dare una passatina di antivegetativo, perché sennò poi ti si attaccano tutti quanti i corsi ed è un macello. Sono andato al dottore ed è uno schifo, basta 15 giorni per capigliare cose attaccate, è una cosa impossibile, ho provato tutti i tipi di antivegetativa, contro la cruda, la roba attaccata. Cappa cappa, beh allora mi dai grande Google Simmi, la porto lì, la faccio scivolare in acqua e via. Anche tanto un po' ci vuole più di carrozziere per verniciarla che altro. Ora faccio un inviato un'antivegetativa fatta con tutti i criteri eccetera eccetera, però quando noi tagliamo la barca con la bru per sollevarla, tu devi andare dal verso tutti i suoi avventi. Io lo so, io ho visto tante già, io penso che avevo quella piccolina, no, di barca, ne avevo prima, ne avevo una che era 3,50 metri ed era leggerissima. Un sabato sera sono andato a pescare con mio figlio e poi ho fatto l'indiano, no, l'ho posteggiata adesso dove c'è la barca dei pompieri nello spigolo, e io l'ho messa appena appena più avanti dalla barca dei pompieri e l'ho messa lì al coso, ho detto tanto domani mattina devo venire e andiamo a pescare con mio figlio, e niente, poi l'ho lasciata lì. Domani mattina vado per pigliare la barca, per andare a pescare la barca non c'era più, me l'avevamo rubata. Sì, sì, non bisogna mai lasciare niente, non è compreso. Altro che quello, ne hanno rubato le barche, sono, ci sono una razza di altri. Dopodiché l'ho ritrovata quando era quasi finita la stagione e io non avevo più speranza lì. E mio figlio che stavamo pescando al Moloese mi dice, ma prova a passare al porto a vedere se troviamo la barca. Le passate siamo e abbiamo trovato la barca nello stesso punto dove ce l'avevano rubata, però non c'era più niente. Se la vedrà adesso stanno preso quello che li serviva. E tutta la tessatura di bordo mi hanno rubato, la batteria, i serbatoi della benzina, tutta la roba che c'era dentro, cime, ancora, tutto, non c'è rimasto nulla. Anche da me, dopo la mattina hanno rubato un sacco di cose, adesso già da un po' se non stanno entrando, e come presente è chiuso a cancello di lì, però non sa che entrano, anche di quello forse, l'altro dia a me non mi hanno mai portato via niente, però forse sono stato più fortunato di altri. Cappa, senz'altro sarà così, perché mi hanno detto lì che rubano un altro, non ti puoi fidare, perché poi se sei forestiero ancora più. Ma se ne ruba la copertina del motore, ma dai, è lì che di tutto nel miliardo. KK. No, ma io pensavo che mettendola lì la gente, cioè, che cosa aveva a rubare. Cioè, non era una barca da signori, era una barchetta che io avevo preso giusto per andarmene a pescare così. Eppure me le hanno rubate, me le hanno pigliato tutto, cime, salvagenti, tutto quello che c'era nella barca ci hanno portato via. Guarda, le piccoline sono le più ricercate, le barche piccole. Ma mi sono stata stata la barca di 78 metri, si vogliono un giro sopra e ti davano 4 fettini e non la toccano, però le barche piccole, i gommoni sono ricercate. Grappa. No, ma io quando ho visto che non c'era sono entrato subito in capitaneria, ho fatto la denuncia, prima in capitaneria e poi mi hanno mandato alla polizia marittima che è su, rientrando verso Sassella dove c'è il mattatuio. Sono andato lì, poi ho fatto la denuncia e niente, no, non è successo nulla di particolare. Solamente che la barca per tutta l'estate non l'ho più vista. Purtroppo è brutto così, soprattutto l'estate la naturale visuale. Io ancora, ma Gianni c'è ancora? Gianni c'è, ma ha detto che non poteva parlare perché c'è chi stava informando. Pensate che si è fatto tardi, adesso interrompo Mario, saluto a tutti quelli che sono all'ascolto, a te e a Gianni, ci sentiamo alla prossima che domani devo andare a travagliare. E anche io, domani devo andare forse a Bosa a consegnare dei pannelli solari là. Vabbè, grazie della chiacchierata e ce la riscoltiamo alle prossime, buonanotte. Grazie anche a te, alla prossima, ciao Gianni e anche a Mario, ciao a tutti.